Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei tornare sul caso Balotelli e sulla sua storia. Nato per il gol, prima punta o esterno, Balotelli gioca per sé e per la squadra. La bella favola di un ragazzo di 18 anni che può vantare nel suo personale palmarès uno scudetto primavera e un torneo di Viareggio. Tutte esperienze vissute da protagonista, sia con i pari età che con la prima squadra alla quale Mario è stato aggregato da uno che di talento se ne intende, Roberto Mancini, quando il fiato era grosso e il cuore nerazzurro stava temendo il peggio. Traguardi che la maggior parte dei giocatori di Serie A ha solo sognato, come tutti, da bambini, quando un campo polveroso senza neppure il gesso per segnare l'area di rigore diventava il Santiago Bernabeu e il cuore nerazzurro provava a vendicare i gol che la sera prima avevano portato all'ennesima eliminazione della beneamata. Save the children. Lasciamo che i ragazzi sognino ancora quell'X Factor che potrebbe portarli, come Mario, un giorno a San Siro, al Nou Camp, al Bernabeu, ad Anfield. Ma l'onda intanto stava montando. Ecco il bad boy, il grande antipatico, il cattivo esempio, il negro di. La partita di Torino è stata l'apice, ma non possiamo dimenticare che un ragazzo è uscito in barella semisvenuto a Genova, culla del calcio italiano più di 100 anni fa, fra inutili e insensate bordate di fischi. E tutto questo per un X Factor al contrario, per un dagli all'untore, colui che ha sparso per la città l'unguento pestifero. Le prove? Si è buttato in area. No, ha zittito la curva romanista e ha fatto una linguaccia a Panucci. E non solo. Ha mandato a quel paese l'arbitro e irriso gli avversari. Peggio ancora, ha indicato lo scudetto sul petto. E chissà che incidenti poteva provocare un simile gesto. Ognuno di noi provi a tornare ragazzino e immagini che quel campo polveroso sia uno stadio in cui 20.000 persone intonano i cori che, stavolta nessuno, poteva far finta di non aver sentito. Che reazione avremmo avuto? I sogni sarebbero morti molto prima che all'alba. Ma resta la domanda principale. Qual è stata la genesi di tanto livore? Il colore della pelle? Una maglia che si indossa? L'impressione è che sia stato creato il mostro, a prescindere dal colore della pelle e della maglia. Stavolta nessuno ha potuto far finta di nulla, ma il crescendo rossiniano aspettava solo il suo punto apicale. Ci si è spinti così in là che la macchina televisiva sembra inarrestabile. E tutto sulla pelle di un ragazzo di 18 anni. Ma non è l'untore che ha portato la peste. Non vorremmo vedere scritta un'altra storia della colonna infame. Non c'è giustificazione sportiva, sociale e civile che tenga di fronte a stadi che, divenuti Porto Franco, mostrano il peggior campionario della bestialità umana, mentre opinionisti travestiti da giudici emettono sentenze definitive su un ragazzo che probabilmente neppure conoscono di persona. Save the children. Il calcio non è sport per educande, ci viene detto. Forse è vero. Le suddette potrebbero però sopportare la vista di qualche tocco di suola e di qualche linguaccia, ma si tapperebbero sicuramente le orecchie sentendo i cori negli stadi e certe trasmissioni sportive. Mentre scrivo, mi ripeto però che ogni tanto dovrei esercitare maggiormente il mio diritto di spettatore, compiendo un semplice gesto, clic, fine delle trasmissioni, fine della pestilenza. Sorrido pensando alla televisione così spenta, rovesciando la storia, avrei eretto anch'io la mia colonna infame. Stefano. Egregio direttore, vorrei rispondere a quel vostro ascoltatore che nella puntata di martedì, parlando di dittature, minimizzava il ruolo del fascismo in quanto considerato non sanguinario come il nazismo. Vorrei fargli presente che non esiste una modica quantità di dittatura. Quando in un paese non ci sono elezioni libere per scegliere i propri governanti, quando la stampa è sottoposta a censura, quando gli oppositori sono mandati al confino, anche se a mangiare pasta e fagioli e a passeggiare sulla spiaggia, come lui sostiene, in quel paese c'è una dittatura e non esiste un campionato delle tirannie in cui vince chi è più crudele e quindi è il più tiranno degli altri. La dittatura è inaccettabile a prescindere, ingiustificabile senza se e senza ma. Se poi entriamo nello specifico, non mi sembra che il fascismo si sia fatto mancare niente. Vogliamo parlare di Giacomo Matteotti, dei fratelli Rosselli, di Don Minzoni, di Natale Galba? Sono solo alcuni dei tanti oppositori uccisi dai sicari fascisti, spesso con crudeltà inaudita, come Don Minzoni, massacrato a bastonate. E le leggi razziali? Ma il vostro ascoltatore ha mai letto il testo di quella legge? La legislazione antisemita comprendeva il divieto di matrimonio tra italiani e ebrei, il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni e per le società private di carattere pubblicistico, come banche e assicurazioni, di avere alle proprie dipendenze ebrei, il divieto di svolgere la professione di notaio e di giornalista e forti limitazioni per tutte le cosiddette libere professioni, il divieto di iscrizione dei ragazzi ebrei nelle scuole pubbliche. Gli sembra poco? E le guerre imperialiste in Etiopia e in Libia, volute dal regime. Ci amiamo definire italiani brava gente, ma lì abbiamo compiuto nefandezze non minori rispetto a quelle naziste o dei regimi comunisti. Caro ascoltatore, la invito a riflettere su quello che lei ha scritto. Se oggi ha potuto esporre le sue strampalate idee sul fascismo, e se una radio gliela diffuse, è perché, fortunatamente, quel regime, che per lei era all'acqua di rose, non c'è più. E per cacciarlo è stato necessario il sacrificio di migliaia di nostri concittadini. Non è quindi un gran male se una volta l'anno, il 25 aprile, ce ne ricordiamo. Francesco, Torino. Il giovane tedesco che aveva abbandonato i tre figlioletti in una pizzeria e si era allontanato con la sua giovane compagna, affidandoli alla pietà del prossimo, arrestato e condotto in prigione, ha tentato il suicidio. Nei giorni scorsi un importante giornale italiano aveva pubblicato la notizia dell'abbandono dei piccoli e aperto una lista di commenti. Il tono generale di questi articoli era uno specchio dell'Italia feroce che oggi finge di commuoversi per i terremotati abruzzesi e raccoglie soldi che probabilmente non raggiungeranno mai l'Aquila. Erano tutti di durissima condanna per questa povera coppia di disgraziati ragazzi costretti ad abbandonare i figli per non farli morire di fame. I più benevoli si limitavano a criticare severamente il fatto che avessero messo al mondo dei figli sapendo di non poterli mantenere e crescere. È l'accusa che viene fatta spesso ai nostri poveri. Se non hanno i mezzi, perché mettono al mondo figli? Disprezzo, antipatia e anche odio per coloro che sono caduti talmente in basso da compiere un atto che viene giudicato disumano, ovvero l'abbandono dei figli. Figli che sono stati tolti ai reprobi genitori a tamburo battente da uno stato superbo che ha per stemma un'aquila imperiale e che ha provato soltanto irritazione perché qualcuno dei suoi cittadini ha mostrato al mondo quanto si può essere disperati e poveri nei suoi lender, tanto poveri da non poter comprare un po' di latte, un omogeneizzato, un pacco di pannolini. Il ragazzo ha tentato il suicidio sotto il peso enorme della riprovazione perbenista, ipocrita e razzista della stampa. Prima di essere arrestato con la sua disgraziata compagna, madre dei bambini, aveva vagato tra i boschi e forse non avevano più niente da mangiare. Come sosteneva Reagan, avevano la colpa di essere poveri. Una colpa terribile. Essere poveri, per il liberismo che ancora impera, nonostante abbia spinto il mondo verso la catastrofe e rovinato tanta parte dell'umanità, è una colpa. Se sei povero, è perché non hai la virtù dei giudiziosi e Dio ti ha abbandonato al tuo destino. Ci fosse stato uno solo che avesse avuto un minimo di umano rispetto, che si fosse domandato perché e attraverso quale inferno e quanti fallimenti due giovani fossero giunti al loro tragico capolinea. Sono sdegnato per il fatto che siano stati privati della patria potestà. Considero ingiusto che non possano mai più rivedere i loro figli, che non hanno potuto nutrire perché privi di soldi, sbandati, vittime di un'esistenza che è stata una dolorosa successione di brutti giorni. Considero una società che reagisce alla miseria di una famiglia, disgregandola, destinata a fallire essa stessa dal momento che ha ucciso la pietà e la capacità di soccorrere chi affonda nelle difficoltà. Pietro. Io credo che a Santoro vadano riconosciuti molti meriti. Nel 1994 Santoro è in Rai e alle elezioni vince Berlusconi. Nel 1996 il centro-sinistra vince e Siciliano caccia Santoro, che va in Fininvest, poi torna in Rai nell'era del premier Giuliano Amato. Nel 2001, nonostante l'uso criminoso della TV pubblica, da parte di Santoro, Berlusconi stravince. Nel 2006 Santoro viene esiliato per anni a Strasburgo, non è in onda, e Berlusconi perde. Nel 2008, in soli due anni, un redivivo Santoro in Rai fa cadere il governo e ci porta al voto anticipato. Berlusconi stravince. Santoro, insomma, conta per Berlusconi più di Feltri, Giordano e Belpietro. Credo che Santoro non abbia da temere per il suo budget, perché se anche lo dimezzassero, potrebbe sempre ripianare il debito pubblico italiano solo con la tredicesima. Nota, 60.000 euro a puntata per Santoro e 800 euro a puntata a Vauro, ossia 3.200 euro al mese. Faccio notare che Santoro ha più volte ospitato e fomentato gli odiatori della casta, che dei soldi dei politici hanno sempre fatto scandalo, raffrontandoli populisticamente agli stipendi dei precari. Stavolta non vale? Marco. Un'amica mi ha segnalato un video che si trova anche su YouTube, dove con tutta una serie di motivazioni giuste o sbagliate, comprensibili o inspiegabili, tutto viene ricondotto a un vaffa generale. Ora che la soglia dei 40 anni l'ho passata e ho difficoltà a spiegare alle mie figlie di 11 e di 6 anni il perché di tante cose che accadono, resto disarmato e disarcionato da questo tipo di messaggi. Mi chiedo dove portino, a cosa portino e alla fine cui bono. La nostra pancia magari ci chiamerebbe ad unirci a questo coro qualunquista e populista, mentre invece la testa non vuole darla vinta. Riusciremo mai ad aggregarci davvero? Noi, maggioranza silenziosa e arrabbiata, senza una tessera in tasca, ma con un sistema neurocerebrale ancora funzionante, e sbaragliare tutta questa insensatezza, a ricondurre il grido di dolore che comunque vedo in quel video a un progetto per una società migliore da affidare ai nostri figli? Non mi rassegno e semmai mi arrabbio ancora di più che da un palco così ascoltato dai giovani passino messaggi come quello contenuto nel video. Un video un po' alla Grillo, ma semmai ancora più vigliacco perché nessuno ha il coraggio di metterci la faccia veramente. Un po' alla Travaglio, ma senza averne il graffio ironico. Possibile che non si riesca a trovare qualcuno che veramente anche da zero riesca a porre termine alla pars destruens e inizi ad indicare quella costruens di cui tanto l'Italia ha bisogno? Massimo, Modena. Beata l'America, dove un attore può diventare non solo governatore, ma anche presidente. Ma possibile che nessuno si sia accorto che anche le veline possono essere laureate e impegnate in politica? E poi, le lingue straniere forse le conoscono più loro che certi parlamentari alla Di Pietro. Elena. Gentile direttore, immagino che in questi giorni qualche sacerdote avrà ricevuto questa confessione da qualche uomo politico cattolico. Il rimorso, caro padre, il rimorso non mi dà pace. Non ho speso mai una sola parola affinché fossero applicate le norme antisismiche. Mai una sola parola affinché gli edifici pubblici, le scuole, le case tutte fossero rese sicure. Altri erano i miei pensieri e oggi tutti quei morti e quelle macerie in Abruzzo mi tormentano. Non stia a darmi la penitenza, caro padre, che so bene io che cosa devo fare. Chiederò scusa pubblicamente agli italiani e lascerò per sempre la politica. Poi, il cattolico contrito avrà dimenticato di eseguire la penitenza. Attilio, Genova. Caro Attilio, proprio oggi il Papa ha voluto portare personalmente la sua solidarietà e il suo messaggio di speranza ai superstiti del terremoto. Lo ha fatto, secondo me, al momento giusto, ora che è superata la fase più drammatica dell'emergenza e dei soccorsi e che si deve impostare un programma di coraggioso e progressivo ritorno alla normalità. E in questa fase, accanto ai progetti di ricostruzione, deve andare di pari passo anche la ricerca di eventuali responsabilità in quanto è accaduto. È possibile, anzi probabile, che alcuni edifici siano stati costruiti senza rispettare la correttezza delle procedure, realizzati al risparmio per aumentare il profitto di imprese e costruttori e magari anche di qualche politico. È questa tuttavia un'ipotesi su cui la magistratura dovrà fare chiarezza e su cui non è né possibile né giusto fare processi sommari. Lei, caro Attilio, punta addirittura il dito solo contro qualche uomo politico cattolico, pronunciando già la sua sentenza di condanna. Mi permetta, la sua è una cultura del sospetto che dovrebbe essere estranea alla cultura e alla politica. Perché, come ha detto il Papa, è tutta la comunità civile che deve fare un serio esame di coscienza affinché il livello delle responsabilità in ogni momento mai venga meno. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.